4i. Ascolta e rispondi. Voi preferite il caffè amaro? Sì, preferiamo il caffè amaro. Voi spedite una email? Sì, spediamo una email. Voi inserite i dati? Sì, inseriamo i dati. Voi garantite buoni risultati? Sì, garantiamo buoni risultati. Voi obbedite sempre? Sì, obbediamo sempre. Voi suggerite una soluzione? Sì, suggeriamo una soluzione.